This Is Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Sinister dinner deals, a meal drums, wicked wheels, hooked bone rising from my food. All things that are good are unclean. And the mercy seat is waiting, and I think my head is burning. And in a way I'm yearning to be done with all this measuring of food. Of an eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway I've told the truth, and I'm not afraid. Interpret signs and catalog, a black tooth, a scarlet fog. The walls are bad, black bottom kind. They are the sick breath at my hind. They are the sick breath at my hind. They are the sick breath at my hind. They are the sick breath gathering at my hind. I hear stories from the chamber. Christ was born into a manger, like some ragged stranger died upon the cross. And might I say, it seems so fitting in his way. He was a carpenter by trade, or at least that's what I'm told. My good hand tells evil all across his brother's fist. That filthy thigh, they did nothing to challenge or resist. In heaven his throne is made of gold. The ark of his testament is gold. The throne from which I'm told all history doesn't fold. Down here it's made of a wood and wire, and my body is on fire. And God is never far away. Into the mercy seat I climb. My head is shaved, my head is wired, like the moth that tries to enter the bright eye. So I go shuffling out of life, just to hide in death a while. And anyway, I never lie. Where's a wedding band that's good? Tis a long-suffering shackle calling all that ripple blow. And the mercy seat is a-burning, and I think my head is growing. And in a way I'm hoping to be done with all this weighing up the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And I've got nothing left to lose, and I'm not afraid to die. The mercy seat is growing, and I think my head is melting. In a way I'm helping to be done with all this twisting of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway I saw no proof, and no, no proof. Why? The mercy seat is melting, and I think my blood is boiling. And the way I'm swirling all the fun by all this consequence and truth. And an eye for an eye and a tooth for a tooth. And I got nothing left to lose, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is waiting, and I think my head is burning. And in a way I'm yearning to be done with all this measuring of truth. An eye for an eye, and anyway there was no proof, and nor a motive why. And the mercy seat is awaiting, and I think my head is burning. In a way I'm yearning to be done with all this measuring of proof. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway I've told the truth, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is awaiting, and I think my head is burning. And in a way I'm yearning to be done with the loudest measuring of proof. A lie for a lie and a truth for a truth. And anyway there was no proof, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is waiting, and I think my head is smoking. And in a way I'm hoping to be done with all these looks of disbelief. An eye for an eye and a tooth for a tooth. But anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is waiting, and I think my head is burning. And in a way I'm yearning to be done with all this measuring of proof. Of an eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway I've told the truth, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is waiting, and I think my head is burning. And in a way I'm yearning to be done with all this measuring of proof. And I think my head is burning. And I know think my head is burning, and in a way I'm yearning to be done with all this measuring of proof. Of an eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway I've told the truth, and I'm afraid I've told a lie. Not an exit, siamo pronti per incominciare una nuova puntata dedicata a chi? Vabbè. Ma intanto buon pomeriggio a tutti, dedicata a Nick Cave. Nick Cave, a un Nick Cave redento, ormai siamo nell'88, non è più Nick Cave degli anni 80 o dei birthday party. No, no, sicuramente questo no, però insomma noto che torniamo un attimo di nuovo sull'Australia, quindi torniamo alla puntata. Sì, ci è piaciuta un po' la storia dell'Australia, abbiamo voluto un po', no, ripercorrerla di nuovo con nuove vicende, perché comunque l'Australia è un posto lontano però pieno di storia e comunque da raccontare, da far conoscere, anche grazie all'artista come Nick Cave, che insomma l'Australia l'ha vissuta forse in adolescenza, poi è venuto un po' parecchio in Europa fra Inghilterra e Germania, però di Australia ha raccontato anche tanto e molti magari ne sono rimasti un po' all'oscuro di questo. Vabbè, il Nick Cave degli anni 80, appena sbarcato a Londra, era il Nick Cave appunto di Birthday Party, quindi un gruppo furioso, un gruppo punk, anche se il punk era già finito, ma comunque c'era molto di punk, molto di new wave, tanta furia, tanta nichilismo. Era un Nick Cave molto molto giovane, circondato da un sacco di australiani espatriati. Cioè, per quanto riguarda la scena musicale, l'Australia ha sempre prodotto tanto, ma quasi tutti sono dovuti espatriare a ritroso nella natia Inghilterra per raggiungere il successo. È quasi paradossale se pensiamo che l'Australia è stata terra di espatri forzato per migliaia, decine di migliaia di britannici, irlandesi, inglesi soprattutto. I was cut from her belly with a Stanley knife. My daddy did a jig with a drunk midwife. Who's that yonder all in flames, dragging behind him a sack of chains? Who's that yonder all in flames? Well, up jumped the devil and he staked his claim. Was blacker than the chambers of a dead nun's heart. But who's that milling round the courthouse steps? Nail on my face to the hitch and fence. Who's that milling round the courthouse steps? Up jumped the devil and off we crept. Deserts of Mexico, where my neck was safer from the lynch in Rome. Who's that yonder laughing at me like I was the brunt of some hilarity? Who's that yonder laughing at me? Well, up jumped the devil, one, two, three. Beh, dicevamo prima di Nick Cave che sì, per noi non era poi tanto australiano, perché come tanti è venuto qua in Europa. Tra l'altro in questo 1988 era in quel di Berlino, si era un po' ripulito dagli eccessi giovanilistici, eccessi di cui potete ben immaginare di cosa sto parlando. Beh, insomma, comunque in questo 1988 comunque aveva magari un po' abbandonato i suoi temi, scusate, i suoi modi soprattutto più aggressivi, più nichilistici, ma non nelle sue radici e i suoi temi. E io mi sono sempre chiesto, ma perché Nick Cave parla sempre di assassini, tradimenti, donne uccise, violenze, cose comunque turpi? Capisco che Londra poteva essere, o anche Berlino negli anni 80 potevano essere chissà che cosa, ma boh, poi magari tornava qualcuno da quelle lande e mi raccontava che erano gran bei posti. Invece in realtà Nick Cave era nato in una piccola cittadina che adesso diremo di frontiera, si chiamava Wangaratta, si chiama Wangaratta. Wangaratta è a 150-180 miglia nell'interno, nello stato del South Galles, nell'Australia più interna. Insomma, è una piccola cittadina, ma è famosa perché è stato il posto dove una delle ultime bande di Bush Rangers, che era praticamente erano i briganti australiani, fu sterminata nel 1880. Ecco dove può darsi che il buon Nick Cave, che fin da ragazzino non è che fosse esattamente uno stinco di santo neanche lui, anzi fu espulso fin dalle scuole medie, fu espulso da scuola. Era un incompreso alla fine, dai. Un disadattato. Insomma, probabilmente questo mito, che poi leggendo di qua e di là ho scoperto era un mito che era molto popolare, il mito del brigantaggio australiano, dei Bush Rangers, era veramente molto molto popolare, diffuso anche nel secolo scorso e probabilmente tuttora. Un po' come il brigantaggio dalle nostre parti. Eh sì, decisamente. Alla fine la storia, insomma, dei briganti che comunque vengono, come dire, appoggiati dal popolo, insomma, che sta alla base, insomma, e quindi che vanno a fare razzie dai più abbienti, insomma, per fame alla fine. Sì, i novellini Robin Hood, praticamente. Sì, praticamente sì, insomma. La cosa curiosa è che mentre negli Stati Uniti venivano quasi mitizzati questi tipi di personaggi, in Australia sono praticamente scordati o delle due Beh, sì, perché il primo film, proprio su primo lungometraggio della storia addirittura del cinema, fu un film sulla banda Kelly, su Ned Kelly, è del 1906. Durava più di un'ora, quindi un film importante, ma poco dopo le autorità australiane decisero di vietare il tema dei Bush Rangers da tutta la filmografia australiana, quindi cercarono di zittire un qualcosa che era ancora probabilmente talmente diffuso che dopo tutto erano passati solo 26 anni, la madre e la sorella di Ned Kelly erano ancora vive quando proiettarono il film e quando lo filmarono. Quindi era un mito ancora molto vivo e radicato in una terra che ben più degli Stati Uniti d'America era ancora tutta da istituzionalizzare. Winding cloth holds many moths around your Ku Klux furniture. I come a dancing in your front. And we discuss the murder plan. We discuss murder and the murder act. Murder takes a wheel out of Cadillac. A jet climbs in the back. Oh, Deanna. Oh, we will eat out of their pantries and their parlors as she leaves in their beds, and we'll unload into their heads on this mean season. But this little angel that I'm squeezing, she ain't been mean to me. Setting yours to sin, 'cause they're just in yours to sin. I so weak to you now. I ain't getting any younger. Any of my friend now. The sun I hold at my shoulder, and I don't intend to get any older. Oh, Deanna, well, I ain't down here for your money. I ain't down here for your love. il pezzo che abbiamo appena ascoltato è Diana, un pezzo autobiografico, perché questa Diana era una sua amica d'adolescenza di Nick Cave, e insieme facevano un po' i Bonnie and Clyde in giro, perché le combinavano di ogni. In Australia. In Australia, sì. E praticamente, sì, nell'88, appunto, in intervista con Jack Barron, Nick Cave riuscì a dire, insomma, almeno si dice che abbia confessato al giornalista le sue peripezie con questa famosa Diana, una ragazza, appunto. Però non si sa, perché poi a volte Nick Cave le raccontava così, però era molto fantasioso, quindi alcuni davano, insomma, il 50% di verità e il 50% di fantasia, perché comunque lui non si apriva mai tantissimo sui testi. Però, insomma, è divertente questa storia di lui, vederlo in giro per l'Australia con la sua amichetta a fare poi Bonnie e Clyde della situazione. Forse davvero il viaggio in Inghilterra è stato un po', no, per sfuggire forse alle grinze, alle grinze della polizia. Alice wakes, it is morning. She is yawning as she walks about the room. Her hair rolls down her breast. She is naked and it is June. Standing at the window, I wonder if she knows that I can't see. Watching Alice rise year after year. Up in her palace, there, Alice's body is golden brown. Her hair hangs down and she brushes it 100 times. First she pulls her stockings on, and then the church bell chimes. Alice climbs into her uniform, zippers on the side, watching Alice dressing in her room. It's so depressing, it's cruel. Sempre This Is Not An Exit, siete sempre su Radio Città del Capo, sono le 16.06 minuti primi, stavamo parlando di Bush Rangers, cioè i briganti australiani che originariamente erano degli evasi. Ricordo che l'Australia era praticamente un continente penitenziario, nacque proprio con un'idea di sistema carcerario, dato che ormai le carceri inglesi erano piene e che nell'opinione comune di chi comandava in Inghilterra la criminalità, peraltro non mancava, era il problema principale da debellare. Quindi decisero di espatriare, o meglio, deportare. Fu una prima deportazione scientificamente organizzata, sistematicamente organizzata, si chiamava appunto il sistema. Alla fine, tra la fine del 700 e l'inizio dell'800, deportarono tantissimi, dai comuni ladruncoli ai ribelli, delle abbastanza frequenti rivolte in Irlanda. Quindi inizialmente i primi Bush Rangers erano gli evasi da comunque strutture penitenziarie aperte, perché diventavano praticamente degli schiavi. La condizione di schiavitù in Inghilterra non era sopportabile neanche delle autorità e dal sistema giudiziario, ma in Australia sì, era dall'altro mondo, nessuno aveva da ridire. Ebbene, questi sforzati, questi servi, purché rimanere in libertà e quindi fuggire dalla schiavitù, preferivano i Bush. I Bush sta per dire la parte più selvaggia dell'Australia, ma i primi anni erano veramente difficili perché l'agricoltura non esisteva, magari era gente che erano ex marinai, erano gente che era urbanizzata. Ricordo che l'Inghilterra già alla fine del 700 era molto urbanizzata, quindi gente che non era avvezza a cavarsela nel bush, nei boschi, quindi erano costretti a rubare bestiame, addirittura cani da caccia, depredare le case dei contadini, dei primi coloni, dei fucili, insomma di tutto quanto, come poteva essere un cavallo, permetteva loro di sopravvivere. Anche se molti, soprattutto all'inizio, quando avevano poco da rubare perché c'erano pochi coloni, morivano letteralmente di fame. Crying mercy, mercy. garden full of roses. My hands were tied behind me. My cousin's working miracles. I wonder if he'd find me. The moon had fished toward me like a platter made of gold. My death had almost bought me, so often was it told. And I cried, mercy, mercy on me. Chissà quanto assoluticavano queste storie che ormai erano entrate nell'immaginazione popolare. Il giovane Nick Cave, che come abbiamo ricordato prima, ne combinava anche lui, e in qualche modo a qualcuno si sarebbe dovuto ispirare, e chi non poteva essere meglio come ispirazione se non Ned Kelly. Ned Kelly era praticamente un suo conterraneo, era, o quantomeno abitava in quelle lande, a Vangaratta, così si diceva, non mi ricordo, sì, Vangaratta, scusate. Beh, Ned Kelly è stato il capo di una delle ultime band era quella di Nick Cave, i Bad Seeds, band di briganti bushrangers australiani, ovviamente di origine irlandesi come tanti dei deportati. Non era un galeotto, era figlio di galeotti e ne aveva subite di ogni fin da bambino, come voi vi potete ben immaginare, essere figlio di ex galeotti. Diciamo che i poliziotti dell'epoca non è che ti trattassero esattamente coi guanti. Beh, insomma, dopo tutta l'adolescenza passata dentro e fuori le prigioni, i riformatori non c'erano, andavi direttamente in prigione. Insomma, si decise anche lui a darsi alla macchia e aveva qualche sua rivendicazione politica. Ripeto, non era un analfabeta, non era un galeotto, aveva avuto un minimo di educazione e scrisse addirittura un suo pamphlet, un suo proclama, dove rivendicava il diritto alla terra irlandese e sottolineava il fatto che tutto il sangue e le vite di questi deportati, che comunque rimanevano sempre sotto o in catene in Inghilterra oppure sotto il giogo del dominio inglese nelle colonie penali australiane, valevano la sua opera e il suo istinto di ribellione. E tra il fatto che, se considerate il fatto che tanti dei deportati poi diventati liberi, scontata la pena, quindi piccoli agricoltori, o comunque tanti emigrati erano di origine irlandese e comunque dovevano sottostare a un sistema, quello inglese, che li teneva sotto stretto controllo, beh, Ned Kelly e la sua banda per vari anni riuscirono ad avere l'appoggio di tanti contadini, un po' come succedeva per i briganti anche in Italia, immagino, in Spagna, e quindi per parecchi anni riuscirono a tenere in scacco la polizia australiana. C'era una partecipazione collettiva che non era sottovalutabile, non lo è mai stato. Intanto no. Però volevo approfittare per porre un po' da così l'attenzione sul sottofondo musicale, che veramente è divino. Beh, questa era ricordo che siamo pur sempre nell'epoca del Nick Cave del 1988, e questa era la musica del 1988, la musica felice. Siete sempre su This Is Not An Exit, stavamo parlando di Nick Cave, ma soprattutto dei Bushranger, sua probabile fonte di ispirazione. D'altronde anche questa canzone si chiama La città del rifugiato. Faresti meglio a correre alla città del rifugiato. Beh, insomma, Ned Kelly e la sua banda di Bushrangers riuscirono a prendere il controllo più o meno completo di una larga, vasta fetta di territorio, e a quel punto le autorità decisero di usare la forza e la sua cattura, per forza di cose, entrò in ballate ed entrò nella mitologia australiana. Ma d'altronde neanche Sergio Leone oppure neanche in un fumetto di Tex probabilmente hanno mai rappresentato una cosa del genere. Ned Kelly e la sua banda si erano rifugiati in un pub, tanto ormai più che rifugiati erano diventate quasi casa loro. E allora le truppe inglesi di polizia a cavallo, create apposta per sgominare il banditismo, li circondarono e addirittura appiccarono fuoco al pub intero. Ned Kelly riuscì a sopravvivere perché si era addirittura costruito, lui e i suoi compagni, un'armatura in ferro, come un po' come per un pugno di dollari, se non vado errato, Clint Eastwood quando disse dritto al cuore, spara al cuore, Ramon, Ramon. Mira al cuore. Mira, una cosa così, sembra veramente che sia uscito da un film epico, La Sergio Leone, invece no, in realtà l'armatura è tuttora conservata in un museo australiano. E grazie a questo fu ferito e catturato e poi impiccato, ma non riuscì a rispondere al fuoco fino all'ultimo. Tra l'epica di questi personaggi c'era quella che non si arrendevano mai alle truppe e sparavano all'impazzata fino alla morte. Insomma, tutto questo per cercare di scappare allo stile sistema carcerario inglese, ma non solo, riuscirono a... Queste figure entrarono nell'epica australiana e trasformarono quella che era parte del sistema carcerario, cioè la natura ostile. Tanto i carcerieri sapevano bene che la maggior parte dei carcerati evasi sarebbero morti di stenti. Loro no, riuscirono a ribaltare la natura australiana a proprio favore e facevano una specie di trasvalutazione da natura ostile a natura protettiva, e questo divenne parte del folklore fondante di qualcosa che stava diventando una nazione a parte, l'Australia, che man mano si staccava dall'Inghilterra. Forse anche per questo motivo nel 1910 o giù di lì proibirono i film sui Bush Rangers. Darling, that morning you chose to go, I awoke in my boots and clothes. You're digging my cars, stolen my cash, even my $500 super slash. And I just lay there watching the sun fall down from the sky, not wanting to open the letter, but opening it anyway and seeing those two words, lover, lover, goodbye. So slowly goes the night. Next to me lies your body, playing like the map of some forbidden land. I trace the ghosts of your bones with my trembling hand. Dark is my night, and darker is my day. Saw the warning signs. How goes it? It goes lonely. It goes slowly. As all slowly goes the night. A 10 lonely days, a 10 lonely nights. Come. I'll watch the moon get played each night until the moon becomes the skin in night. The skins of my sins I send to cover and comfort you. I know the hair, but honey, I know the hair. Head, I toss in my bed. I never, never forget the words you said. One evening I'm leaving, and I left and checked her breathing. I said, darling, I'll go slowly through the night. Oh, baby, I feel the heel of time. To find you sitting right there, cutting tangles out of your hair, singing a song that's all wrong. Hey, but that's alright. I don't care. No, I'm sorry for all the misery. time and grace and empty space. A song that slowly, slowly fades. Where goes it? It goes someplace. It goes somewhere where it's lonely and black as the night. Put things right, put things right. I hang my head and cry, cry, cry. Darling, all that I tried, I see that I resign for this mad, mad season. And I feel so long now, I can't remember being alive. Call it what you like, but only sleep brings you back to life. Yeah. I hang on my head, I toss and I sweat. I never, never, never can forget. How goes it? Well, I'm going. Ever slowly, slowly going. And we both know that it's gonna be alright. Thank you, the pastor. Crap, crap, crap. Ten lonely days, ten lonely nights. Awesome. You left my side, side, side. Beh, siamo alla chiusura. Ci salutiamo tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ciao Rosario. Ciao Babe, ciao Nicola. Ciao. E special guest Matteo. E ci sentiamo sabato prossimo, sempre dopo il giornale radio. Buon ascolto a tutti. Con If the Kids Are United, che sono qua che aspettano fuori dal studio, e anche il notiziario, mettono, no?